Radio 24 Reportage. Vista dal Tamigi, Londra verso il 2012, di Michela Daghini. È il violoncello di questa giovane donna ad accoglierci qui, in piedi, graziosa, i lunghi capelli biondi sulle spalle, non chiede né si aspetta monetine, suona per il piacere di condividere la musica, come fanno molti studenti qui. Bentrovati dal South Bank di una splendida Londra estiva, dinamica e culturalmente vivacissima. La riva sud del Tamigi è considerata ormai il nuovo cuore della città e dunque una passeggiata qui è uno dei modi per ritrovare la complessità di questa metropoli che ha saputo rinnovarsi nel tempo e che continua ad essere una delle capitali più interessanti del pianeta. E come questi sono molti musicisti di strada che animano la passeggiata che costeggia il fiume. Chi ha visitato quest'area sa che è molto frequentata, una delle preferite dei londinesi. Troviamo chi passeggia, chi corre, chi porta a spasso il cane, chi incontra un amico, chi fa un picnic sugli spazi verdi o chi si sofferma a guardare i numerosi artisti che si esibiscono o i musicisti dai più e meno conosciuti che suonano per strada con grande attenzione dei passanti che si fermano ad ascoltare, magari a comprare il CD. Passeggiando qui troviamo anche molti dei punti di maggior interesse della città, diversi grandi progetti urbani pensati per salutare il nuovo millennio, come il London Eye, la grande ruota da cui si gode una vista panoramica della città, il Millennium Bridge e naturalmente la grande cattedrale europea della cultura, la Tate Modern. Da quando infatti qui nel 2000 è nato quello che è diventato il museo d'arte contemporanea più visitato al mondo, l'energia e l'interesse attorno a quest'area prima trascurata l'hanno trasformata in un centro artistico di intrattenimento culturale a 360 gradi, come racconta il direttore della Tate, il catalano Vicente Todolì. Vedete tutti questi nuovi edifici che non esistevano, prima era un'area molto, se l'abbandono, sì. E dopo culturalmente diciamo che c'è stata una coincidenza anche tra il progetto della Tate Modern, che è cominciato alla fine dei 90, ma anche con questa generazione di YBAs, Young British Artists. Sicuramente questa simbiosi anche ha fatto di Londra, no? Una metropoli culturale allo stesso livello da New York, come minimo. Costruita in quella che era una centrale elettrica, parzialmente ancora in funzione, la Tate Modern continua, grazie alla sua popolarità, ad attirare un pubblico in continua crescita. La Tate Modern solo è aperta nel 2000. Diciamo che all'inizio la gente veniva a vedere l'edificio, ma non più. Questo è il primo anno, i primi due anni. Dopo viene per l'esperienza e per i contenuti, ma quello che noi crediamo che è una delle chiavi è che qui la gente si sente invitata, anche se non sa niente di arte, si sente che è benvenuta e che non sarà trattata di un modo, diciamo, condescendente per il suo livello. Qui tutta la gente a tutti i livelli è benvenuta e siamo preparati per questo. I nostri vigilanti da sala sono anche allenati per rispondere a domande. Sono quasi tanto guide come vigilanti, no? Fa che la gente sente che sta entrando in un posto speciale dove avrà un'esperienza anche speciale. E forse questo è il motivo per cui la Tate Modern riesce ad attrarre così tanti giovani, perché oltre il 60% dei visitatori è sotto i 35 anni, è incredibile. Sì. E questo è fantastico, perché quello vuol dire che abbiamo un pubblico del futuro. E anche adesso abbiamo visto che delle volte abbiamo più pubblico in qualche mostre moderne, contemporanee, che mostre classiche che fanno la Tate Britain, per esempio, no? Rothko ha avuto più gente che Van Dyck. Questo nel passato sarebbe stato inconcepibile. Quello vuol dire che c'è un nuovo pubblico per l'arte moderna contemporanea che non c'era anni fa. E come si fa a conquistare il pubblico, trasformare un visitatore da curioso ad appassionato? È un progetto che è sempre a molto lungo termine. E se un visitatore ritorna una seconda volta, già comincia a diventare il pubblico che tu vuoi, che è il pubblico che ogni due o tre mesi verrà a visitare la te, perché le mostre cambiano ogni tre mesi, nella collezione facciamo cambi ogni anno. Allora, questa fedeltà del pubblico è importante. E i londinesi come la vivono la Tate? Noi abbiamo moltissimi visitatori da Londra, un 40% sono visitatori da Londra, non è tanto. Soprattutto la zona è meravigliosa, anche con le sculture fuori, è davvero uno spettacolo. Allora sì, è diventata anche una delle attrazioni turistiche principali e immagini della città. La Tate infatti è molto amata dai londinesi anche come luogo d'incontro dove darsi appuntamento magari nel bellissimo caffè panoramico all'ultimo piano o al ristorante. È splendida la vista sul Tamigi e sulla cattedrale di St. Paul che si può ammirare dalla terrazza della caffetteria al quarto piano o seduti al ristorante al settimo, cogliendo poi magari l'occasione per vedere le ultime spettacolari installazioni fuori dal museo o per fare un giro nel bookshop. Una meta irrinunciabile per il turista ed un luogo dove chi vive a Londra torna spesso approfittando del microcosmo che è stato creato in questa struttura davvero unica. Come fa il londinese Mike, visitatore e frequentatore fedele della galleria, ma non solo per le mostre. È un luogo di ritrovo dove darsi appuntamento per incontrarsi, per pranzare o bere un caffè. È uno spazio sociale e magari ci si viene e si pensa: settimana prossima devo venire a vedere questa bella esposizione. Il bookshop poi è probabilmente il migliore a Londra per quanto riguarda i libri d'arte. Grande, puoi trovarci ogni libro tu stia cercando. Anche se cerchi film d'arte o DVD, io ci vengo da quando ha aperto. Mi piace molto. Vivo a Londra da sempre. E ricordo bene quando questo spazio era ancora solo una vecchia centrale termoelettrica inutilizzata. Poi si è pensato: se a Parigi hanno trasformato una stazione ferroviaria in un bellissimo museo, il Museo d'Orsay, perché non utilizzare questa centrale come spazio d'arte? Ed è stato un vero successo. In vista del grande appuntamento del 2012 con le Olimpiadi che si terranno qui a Londra, la Tate prevede anche un grande progetto di ampliamento. Lo studio dei celebrati architetti svizzeri Herzog de Meuron realizzerà la Tate Modern 2, questo nuovo spettacolare edificio attiguo, aumentando così gli spazi di oltre 21.000 metri quadrati di superficie e nascerà anche un campus creativo. Il costo totale del progetto equivale a quello sostenuto per creare la Tate Modern originale, 215 milioni di sterline a lavoro ultimato, e vuole essere un esempio per tutti i musei d'Inghilterra. Punti chiave saranno l'ecosostenibilità e l'integrazione con l'ambiente circostante. Consumerà e inquinerà il 50% in meno rispetto ai parametri di riferimento. Questo è l'illustrazione della nuova Tate Modern che ci permetterà, con tanti visitatori che hanno un'esperienza un po' con meno gente, no? Perché adesso se vai alla colazione in un weekend è impossibile vedere niente, ma anche avremo più spazio per la colazione, ci sono opere molto grandi che molte volte non possiamo fare vedere, installazioni principalmente o sculture, ma anche avremo uno spazio per performance degli antichi oil tanks, di quello che era la stazione elettrica. Quindi sottoterra? Sì, sottoterra, in due, lo spazio di performance. E dopo gallerie anche per mostre un po' diverse, meno classiche, un po' più alte, più grandi, per mostre per esempio come Donald Judd, eccetera, che richiedono, c'è molto arte dopo gli anni 60 che richiede un tipo di spazio diverso. E anche avremo più spazi per educazione, per ragazzi. La piramide e la costruzione è davvero spettacolare. Sì, il progetto iniziale era di vetro, ma alla fine si è cambiato a brick. A mattoni, che è anche la costruzione dell'edificio antico. Si potrà entrare da nord a sud, allora si farà una nuova strada che attraverserà il museo e connetterà nord, diciamo, St. Paul e la City con il sud del fiume. L'idea era aprire nel 2012, ma con la situazione finanziaria attuale, questo è un progetto dove abbiamo 50 milioni di pounds dello Stato, ma il progetto sono 220 milioni di pounds. Allora il resto dobbiamo averlo dai privati, allora vediamo se riusciamo, se non è al 12 allora al 13, l'importante è avere il progetto e dopo se non si fa in un anno si fa un altro. È perché questo spazio era stato pensato per 1.800.000 spettatori all'anno, invece sono ormai 5 milioni. Sono più, esattamente, sì, e quello è un... E gli spazi saranno ampliati del 60%. Esattamente, 60%. Cioè sì, ma quando fai un'ampliazione la fai anche per molti anni, non è che ne puoi fare una ogni 5-6 anni, no? Con questa ampliazione già speriamo che non c'è bisogno di un'altra per molti anni, no? E in questo modo quindi anche il panorama culturale dell'attività della Tezzi amplierà per... Esattamente, sì. E dobbiamo vedere... installazioni. Sì, esattamente. Dobbiamo vedere anche come, perché anche i costi saranno più alti. Allora, ma da qui a là, tutti speriamo che già la crisi sarà passata e che saranno di nuovo tempi buoni per l'aiuto alla cultura e all'arte. Comunque è una delle cattedrali dell'arte che riceve più soldi privati, o sbaglio? Privati. Noi il 40% dei soldi vengono dello Stato e il 60% vengono dei nostri sponsor o anche dei biglietti solo per le mostre, perché la collezione è di libero accesso, non si paga, ma anche abbiamo le librerie, i negozi, i ristoranti, eccetera. Ma il ristorante è bellissimo. Sì, stiamo piano, ma dipendiamo molto dai patrons e dagli sponsor. E quello è un problema quando c'è un periodo di crisi, perché automaticamente ne hai meno. Allora devi vedere come fare. So I'm gonna be sitting on the dock by the bay. Adesso ci fermiamo qualche istante, torniamo a Londra con la nostra passeggiata sul Tamigi per intrattenerci con musicisti, prestigiatori e le varie forme di spettacolo offerte in quest'area. Tra poco.